in primo piano. Buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore perché, come avrete sicuramente sentito nei GR e anche in questo delle 7, ieri il grande tema è stato quello delle borse, che nella loro prima seduta dell'anno tutte le borse del mondo hanno perso molto terreno. Il problema è stato che le prime ad aprire e poi chiudere sono state quelle asiatiche e c'è stata una forte contrazione che poi ha avuto degli effetti su tutte le altre. E quindi il Sole 24 Ore titola: la Cina crolla e affonda le borse. Naturalmente sono interessanti, più che i dati che avete appunto sicuramente già sentito, le analisi. E sulla prima pagina del Sole ce ne sono tre. Uno scossone salutare di Giuliano Noci. Scossone naturalmente riguarda soprattutto le borse asiatiche, come abbiamo detto, quelle che hanno perso di più. Pensate, Shanghai ha perso il 6,93. Un articolo di Rita Fatiguso, che è la corrispondente del Sole 24 Ore dalla Cina: rischio contagio più forte. E poi un'analisi di Vittorio Carlini: se viene meno l'aiuto della Fed, perché le mosse della Federal Reserve, la banca centrale americana, in questo scenario hanno sicuramente avuto un effetto. La prima pagina del Sole 24 Ore naturalmente segnala anche l'evento borsistico italiano di ieri, che è stato il debutto di Ferrari, un debutto che vale 8,4 miliardi. Anche qui tre commenti di Andrea Malan. FCA, Fiat Chrysler Automobiles, la holding, si concentra sul piano 2018, quindi un piano a medio termine. Marco Ferrando analizza la galassia finanziaria che fa capo a Exor, e il titolo dell'analisi è appunto l'asso in più di Exor. Exor è naturalmente la finanziaria del gruppo della famiglia Agnelli Elkan, dovremmo dire. E poi Monica D'Ascenzo: sfida da IPO per Piazza Affari, IPO, Initial Public Offerings, cioè il debutto in piazza. Molto interessante anche la questione dell'ILVA, che continua a essere sul tavolo del governo ma irrisolta. Il grande impianto siderurgico di Taranto, che deve essere ceduto, ma deve essere probabilmente anche riconvertito. E allora a pagina 9 trovate la cronaca di Matteo Meneghello: Ilva ha firmato il decreto sulla cessione ai privati. E poi un'analisi di Paolo Bricco: la transizione che serve. E naturalmente l'appuntamento con la guida pratica, la manovra. Oggi il focus è sul lavoro. E lo trovate poi, lo vedremo meglio nel dettaglio, le pagine 16 e 17 del Sole. Vi segnalo però su questa questione della RAI, di cui abbiamo parlato tanto, il capodanno di RAI 1 considerato fallimentare perché è iniziato un minuto prima il countdown, cioè è stato dato con un minuto di anticipo l'inizio del 2016, e poi il famoso SMS con la bestemmia. Un commento di Eliana Di Caro. Eliana Di Caro è una collega del Domenicale, ma è anche una cittadina di Matera, è nata e cresciuta a Matera. Lo trovate, inizia in pagina 1 e si intitola Matera e la festa dimenticata. Ve ne leggo una parte. Mi autodenuncio. Sono nata e cresciuta a Matera. Sono prima di tutto una cittadina, avida lettrice di giornali, e qualcosa si è perso nelle cronache di questo inizio d'anno della festa che ha coinvolto una città intera e non si è letto nulla. E continua poi a pagina 19, ve ne leggo ancora una parte. Ancora ieri, 4 gennaio, i principali quotidiani italiani hanno dedicato intere pagine al messaggino con la bestemmia che ha inquinato il Capodanno in piazza e la diretta della RAI, insieme ai 40 secondi con cui la Mattacchiona TV di Stato ha anticipato l'arrivo del 2016. Due mancanze che non dovevano esserci e per cui chi ha sbagliato va sanzionato, non c'è dubbio. Ma est modus in rebus, ci insegnava Orazio. Di senso della misura in questa vicenda se ne è visto poco. Dello spettacolo del calore che ha avvolto cantanti e artisti grazie a una folla inimmaginabile non c'è stata traccia nei resoconti dei giornali. Sulla perfetta organizzazione dell'amministrazione, che ha retto all'urto di 50.000 persone di tutte le età in piazza a gioire con Malika Ayane o Renzo Arbore, non si è soffermato nessuno. E poi la fine di questo commento: la verità è che resta il dubbio che l'uso strumentale di quanto accaduto per questioni politico-istituzionali con relativo regolamento di conti abbia fatto premio su tutto, anche su Matera e sulla sua festa, con buona pace del modus oraziano. Peccato. E vedremo che appunto sui retroscena del perché ci sia così tanto rumore intorno a questa vicenda ci sono anche altri articoli su altri giornali. Ma passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. anche in questo caso dedicata alla tempesta in cinese sulle borse globali, con un articolo, uno delle molte analisi è quella di Francesco Daveri, le ingombranti scelte di Pechino. La fotonotizia però è dedicata a, avete sentito, ai nuovi controlli, alle nuove barriere che dividono i paesi all'interno dell'Unione Europea. Svezia, controlli dopo 50 anni al confine con Copenaghen, cioè con la Danimarca. Un articolo che vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera è di Fabio Cavalera da Londra. Ci sarebbe un inglese che avrebbe riconosciuto nella foto di quel bambino che abbiamo citato anche ieri, usato in un video dell'ISIS, avrebbe riconosciuto il nipote, e ora lancia questo appello: riportatemi mio nipote, è il bimbo del video ISIS. La cosa curiosa, così, che ho notato, è che ieri questa foto era tranquillamente non censurata, è un bambino la cui età, io ieri ho azzardato 4-5 anni, quindi sicuramente di quelli di cui normalmente vengono confusi tratti con un gioco di pixel. Ieri era stata pubblicata senza nessun problema, oggi invece compaiono i pixel, i misteri delle scelte dei foto editor, potremmo dire. La Repubblica, la Cina affonda le borse. Quindi titolo molto simile anche qui, con tante analisi, una di Federico Rampini, capitale in fuga da Pechino, e molte altre, con naturalmente la cronaca, l'avete sentita nei numeri impietosi del crollo di tutte le borse del mondo. E poi la fotonotizia molto simile a quella del Corriere su questi controlli alle frontiere, con Berlino che ha lanciato questo appello: attenzione, perché così Schengen è a rischio. Schengen naturalmente è il trattato che regola la libera circolazione non solo delle merci ma anche delle persone all'interno dell'Unione. Chiunque di noi sa che all'interno della zona euro si passano i confini, almeno fino a ieri, senza mostrare i documenti. La storia che racconta la Repubblica in prima pagina, grazie a Marc Lazare, giornalista francese, riguarda invece Charlie Hebdo. È passato esattamente un anno dall'attacco alla redazione del settimanale satirico francese. C'è molta polemica, l'avrete forse letto, e del resto molti giornali la riportano, sulla copertina, che è un po' la copertina dell'anniversario di Charlie Hebdo, perché in questo caso è di nuovo una satira religiosa, questa volta del Dio dei cattolici, e il titolo dell'articolo di Marc Lazare è Le ferite della Francia a un anno da Charlie, la copertina della rivista che suscita l'indignazione questa volta di cattolici e islamici. Il Messaggero a sua volta torna sulla questione delle borse, in questo caso titola Cina e Arabia affondano le borse, e c'è naturalmente un senso in tutto questo, perché se il maggiore tema economico viene dalla Cina, abbiamo visto il crollo della borsa di Shanghai, ci sono anche tutte le tensioni geopolitiche innescate dalla decisione dell'Arabia Saudita il giorno prima di Capodanno di decapitare 47 persone definite terroristi, che ha poi innescato tutte le tensioni tra sciiti e sunniti di cui continuiamo a leggere e sentire. Ecco, quindi ci sono questi due fattori. Naturalmente la Cina, l'avete sentito, il problema è questo nuovo stop dell'industria di Pechino, Cina considerata la fabbrica del mondo, e poi quando i dati mostrano che forse non è più così, appunto le borse crollano. C'è un dato richiamato dal Messaggero che è questa cifra impressionante, appunto: in un giorno questi cali in Europa hanno, tra virgolette, per così dire, bruciato 264 miliardi. Inutile dire che tutti gli altri giornali, non solo certo il Sole 24 Ore, danno molto spazio a questa quotazione a Piazza Affari, perché poi la curiosità, se vogliamo, è che se è vero che anche la Borsa di Milano ha comunque ieri chiuso in calo, per la precisione del 3,2%, in realtà Fiat in questa giornata così sfortunata, Ferrari in questa giornata così sfortunata, la giornata del suo debutto, ha guadagnato lo 0,5%. Il Messaggero torna sulla questione delle partecipate di cui abbiamo parlato ieri, si vedrà come appunto verrà implementata la riforma delle famigerate aziende partecipate. Trovate tutto alle pagine 10 e 11, esuberi in mobilità e nodo licenziamenti. Per i dipendenti pubblici verrebbe usato il metodo delle province, che sapete sono state teoricamente abrogate. Nel prossimo Consiglio dei Ministri i 10 decreti per riformare concretamente la pubblica amministrazione. La Stampa sceglie di titolare sulla questione delle nuove frontiere, dei controlli, e quindi troppi migranti, il Nord Europa si blinda. La fotonotizia in questo caso è proprio di Piazza Affari ieri, Palazzo Mezzanotte, la sede della Borsa Italiana, che come spesso accade quando c'è un IPO si veste per sottolineare che quel giorno è il giorno del debutto in borsa di un certo titolo di una certa azienda, e quindi era un Palazzo Mezzanotte, manco a dirlo, molto rosso. Di fronte a Palazzo Mezzanotte c'erano parecchie Ferrari, non tutte rosse, ce n'era anche qualcuna gialla, che credo sia il secondo colore di gara della Ferrari, e poi dei grandissimi striscioni sul palazzo con la Ferrari e il simbolo naturalmente del cavallino rampante. Moltissimi, moltissimi anche in questo caso gli articoli, li trovate a pagina 10 e 11 della Stampa. Una fotonotizia molto simile sull'Unità, perché che però titola Renzi al debutto Ferrari, perché sapete che all'ultimo momento, 4 giorni prima della credo venerdì prima della quotazione, appunto, Renzi aveva annunciato: ci sarò anch'io nel momento in cui scatta la campanella e il titolo Ferrari debutta alla Borsa di Milano. E così è stato, ha anche fatto un discorso, e l'Unità, che poi dedica a questa quotazione le pagine 4 e 5, titola appunto su uno dei virgolettati di Renzi di ieri: ora si accelera, riferito all'economia italiana. Il titolo principale però è simile a quello della Stampa: la barriera del Nord. Dopo i muri a est, perché sapete che sono contro, se in questo caso in realtà i controlli a cui abbiamo assistito ieri in Svezia e Danimarca sono motivati soprattutto sono spiegati come controlli contro eventuali minacce terroristiche, così come lo sono stati quelli negli aeroporti o ai confini con la Francia nei giorni proprio a cavallo di Capodanno. Però l'Unità ricorda che se in generale parliamo di muri contro i migranti o contro la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea, prima della Svezia e della Danimarca, appunto, avevamo già avuto per esempio l'esempio dell'Ungheria. Tornano i controlli alle frontiere, crolla un principio fondativo dell'Unione Europea. Libero ha una dei suoi disegni, delle sue caricature di Benny, il titolo è Il gufo rampante. Su uno sfondo giallo c'è la sagoma del cavallino Ferrari, un cavallino nero come tutti sapete, che si alza sulle zampe posteriori, al posto della testa del cavallo però c'è il viso di Renzi, un po' storpiato da questa caricatura, e addirittura con le orecchie da gufo, da cui il titolo Il gufo rampante. La Cina crolla, c'è affossa Piazza Affari, panico a Wall Street, è l'analisi richiamata in prima pagina, che poi trovate a pagina 20, firmata da Ugo Bertone. Ci fermiamo però un attimo per una pausa. In primo piano. Buongiorno, ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e grazie all'ascoltatore che mi ricorda che in realtà il giallo non è il secondo colore della Ferrari, ma è proprio il colore principale. Eravamo appunto sulle pagine, tanto che Libero, per l'appunto, forse Libero ha proprio questo in mente, come vi dicevo, lo sfondo della caricatura non è rosso ma giallo, dedicato a questo titolo sul debutto della Ferrari alla Borsa di Milano. Il Manifesto, con uno dei suoi titoli così molto fantasiosi, potremmo dire, in prima pagina queste due parole: gli sgommati. E gli sgommati sarebbero Renzi e Marchionne, ritratti nella foto subito sotto. In questo caso lo sfondo è rosso. Renzi e Marchionne hanno in mano un modellino della Ferrari, quindi anche in questo caso la notizia principale, quella di ieri, legata poi al fatto di quello che è successo ieri sulle borse. Il Giornale ha invece un titolo diverso, che è questa notizia sul fatto che per via, almeno così si è giustificato l'INPS, per via del ponte legato alla Befana, le pensioni verranno pagate con qualche giorno di ritardo, e quindi il Giornale: il governo non paga le pensioni, niente accredito sui conti correnti, i soldi arriveranno in ritardo, cittadini imbufaliti. Anche in questo caso molto spazio alla quotazione della Ferrari, con la cronaca: esordio ok nel giorno sbagliato e Renzi salta sul cavallino. E invece il commento un po' di Vittorio Ferrari, che ricorda soprattutto il fondatore della Ferrari, Enzo Ferrari, il genio senza laurea dimenticato dalla sua patria. L'Avvenire si concentra invece su quella che abbiamo detto, la grande tensione che c'è in questo momento nel mondo musulmano tra sciiti e sunniti, innescata dall'esecuzione del leader sciita in Arabia, abbiamo detto insieme ad altre 46 persone. Frattura islamica, questo è il titolo della prima pagina. Il fronte sunnita rompe le relazioni con l'Iran, quindi si schiera a favore dell'Arabia Saudita, tutti i paesi dell'area che sono a maggioranza sunnita, e appunto si schierano contro l'Iran, che come sappiamo è invece a guida sciita. Altissima tensione, attaccate molte moschee in Iraq. La fotonotizia però è di Papa Francesco, che ieri ha visitato Greccio, questo paese dove fu in un certo senso inventato il presepe. Il Papa visita a sorpresa la culla del presepe. Il Fatto Quotidiano molto critico sulla presenza di Renzi alla quotazione della Ferrari, la foto è la stessa pubblicata pubblicata dal Manifesto, cioè di Renzi e Marchionne con in mano questo modellino di una Ferrari da Formula 1. Renzi piazzista di Marchionne con tanti saluti al fisco italiano. Questo titolo, perché poi a pagina 3 trovate un po' la spiegazione di come, dove e in che misura la Ferrari pagherà le tasse. Un articolo richiamato in prima pagina, che poi è interessante se avremo tempo di leggere adesso che poi ci spostiamo nelle pagine interne, riguarda i possibili conti di un svolgimento delle Olimpiadi del 2024, per le quali sapete Roma è candidata appunto nella nostra capitale. L'appello di molti è che decidano gli italiani, è la stessa procedura seguita in Germania, dove la città di Hannover era candidata, ai cittadini è stato sottoposto il quesito tramite un referendum, hanno detto di no, benché persino Angela Merkel, la cancelliera, avesse invitato tutti invece a votare sì per questa candidatura alle Olimpiadi, i cittadini hanno detto no, niente candidatura per la città i cui cittadini hanno chiaramente espresso in questo referendum la volontà che i soldi eventualmente da stanziare per le Olimpiadi vengano invece spesi in altri modi, che naturalmente aiutino in modi diversi lo sviluppo della città. Il Foglio ha un titolo, mi perdoneranno gli ascoltatori che nei giorni scorsi magari hanno scritto che non è il caso di parlare così tanto del film di Checco Zalone. Beh, il film di Checco Zalone continua a macinare record, siamo al terzo giorno, praticamente 7 milioni al giorno, siamo quindi oltre 22 milioni di euro di incassi in 3 giorni. E in questo caso Maurizio Crippa ha intervistato il produttore Pietro Valsecchi, e che racconta come e perché io e Checco Zalone abbiamo dimostrato che il cinema è nudo. Molto gustoso questo articolo, ve ne leggo l'ultima parte perché prende un po' in giro gli intellettuali, in questo caso cinematografici, e i critici. Allora, appunto, nell'ultima parte Maurizio Crippa scrive: poi c'è il tabù dell'intellò, del critico. Tra 20 anni, c'è da scommetterci, saranno tutti a parlare di Zalone come di Totò, come persino si parla ora di Franchi e Ingrassia. Ah, erano grandi, rappresentavano l'Italia e non ce ne siamo accorti. Capiterà, e sarà un segno che ho ragione io, che ha ragione Checco Zalone, dice Pietro Valsecchi a Maurizio Crippa. Chi sa veramente guardare l'Italia? Quelli che pretendono la satira di sinistra, la sociologia? Quelli, insomma, che ancora oggi a checcomania conclamata abbozzano con un po' di fatica? Vedi alla voce Christian Raimo, che pure non è tra i peggiori, che ieri su Internazionale, per poter dir bene di Quo Vado, è stato costretto a semiotizzare, o forse proprio a somatizzare. E qui c'è una citazione di questo articolo, effettivamente un po' pesante, potremmo dire, di Christian Raimo, che voleva essere un elogio del film, ma che era per l'appunto tutto era meno che leggero, come invece è il film di Checco Zalone. La narrazione è quindi una metanarrazione sul modello perfetto di prendi soldi e scappa, è uno Zelig alla meridionale, e a rimproverare il guizzo di coraggio che manca al blockbuster nazionale, confrontarsi con un mondo che non sia solo bidimensionale, altrimenti il serio rischio che corre è di trasformare la sua bonarietà in un'indulgenza plenaria. Forse però è proprio il motivo per cui Quo Vado sta facendo soldi a palate. Chiusa la citazione della cosiddetta recensione di Christian Raimo. Insomma, siamo sempre alla politica. Qualunquista? Troppo di destra? Forse renziano? E dice Pietro Valsecchi ancora, non è questione di destra o sinistra, c'è solo buon cinema e cattivo cinema. La verità culturale è questa, Checco Zalone si è imposto al pubblico, all'Italia, perché ha detto che il re è nudo. Ma stavolta il re nudo è il piccolo mondo antico del cinema italiano, con le sue piccole presunzioni. Dopo un'impresa simile, il posto fisso Pietro Valsecchi se lo merita davvero, conclude Maurizio Crippa, che, e poi Valsecchi a sua volta risponde, magari, ma Renzi ha detto che mi manda alle isole Svalbard, cioè lo esilia come nel film si fa con gli ex dipendenti delle province che non vogliono accettare un assegno e una liquidazione per lasciare definitivamente appunto il loro posto fisso nelle province, in teoria abolite. Concludiamo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Stasera, sapete, ci sarà questo anticipo, questo derby di Genova, ma soprattutto poi domani riparte il candidato. La notizia però della Gazzetta è che è stato alla fine esonerato a Madrid Rafa Benitez, al suo posto andrà Zidane, Real Zizou. E poi una domanda che si fa la Gazzetta, ma sarà capace? E vedremo, insomma, il grande campione francese che come lavorerà, che successi avrà da allenatore. Torniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore, cioè torniamo al Sole 24 Ore, ma nelle pagine interne. Vi segnalavo tutta la questione Ilva, la trovate a pagina 9, con questa analisi di Paolo Bricco, la necessità per il paese di un periodo transitorio, e comunque lo scopo è quello di salvare questo grande impianto siderurgico che, come abbiamo detto tante volte, va riconvertito in qualche modo, ma che è anche una delle poche grandi industrie rimaste in Puglia e al sud in generale, che quindi va, appunto, andrebbe trovata una soluzione. A proposito invece degli scenari 2016, questa serie di articoli che il Sole 24 Ore sta pubblicando affidandoli a premi Nobel, economisti, intellettuali, per cercare così di darci qualche dritta per quello che succederà nel 2016, che si preannuncia pieno di incognite. Abbiamo visto come è iniziato con questi scossoni di borsa. L'articolo di Michael Boskin, come far ripartire il mondo, lo trovate, inizia in prima pagina, lo trovate poi a pagina 21, i passi da compiere per uscire dalla crisi e riprendere la via dell'espansione. Un aggiornamento sulla questione delle banche, in particolare di Banca Etruria, lo trovate sulla copertina di Finanza e Mercati, del dorso di Finanza e Mercati, quindi pagina 24. Per i danni in ballo anche i revisori, sapete che possono essere coinvolti in questa richiesta di danni non solo gli ex amministratori, ma ora anche i revisori. Naturalmente, come vi dicevo, continua la guida alla manovra, la grande legge di stabilità, e come vi dicevo oggi il focus che trovate alle pagine 36 e 37 è sul lavoro. I famosi contratti a tutele crescenti, è stato ridotto il bonus contributivo per gli assunti nel 2016, esonero biennale del 40% con un tetto di 3.250 euro. Come nei giorni scorsi, oltre all'articolo principale, che in questo caso è affidato ad Antonino Cagnotto e Giuseppe Maccarone, ci sono poi delle schede sui singoli argomenti, quindi la staffetta generazionale, il welfare aziendale, i benefici fiscali, gli ammortizzatori, la gestione separata, di cui abbiamo parlato anche ieri con l'articolo di Mauro Meazza in prima pagina sul Sole 24 Ore, e la cura della famiglia, per esempio con le novità anche sul congedo parentale, che sappiamo finalmente, potremmo dire, riguarda anche i papà e non soltanto le mamme. Dal Corriere della Sera invece un articolo di Sergio Rizzo su una riforma di cui ha parlato tanto anche il Sole 24 Ore, qui viene ancora una volta un po' riassunta, vale la pena perché sicuramente è un cambiamento importante, sulla legge fallimentare. La parola stessa fallimento non comparirà più nella legge e forse non verrà più usata. Aziende crisi, addio al fallimento. Nella riforma questa parola fallimento, appunto, che è un po' così una lettera scarlatta, se vogliamo, che viene applicata alle aziende, verrà sostituito dalla liquidazione giudiziale. Pensate che le procedure attualmente con la vecchia legge possono durare fino a 50 anni, quindi sicuramente una riforma ci voleva, speriamo che sia una riforma non solo annunciata e che soprattutto produca i risultati auspicati. Dalle pagine del Corriere della Sera un bell'articolo di Matteo Persivale che ci racconta la nuova passione di Bill Gates, il miliardario critico letterario. Da bambino, ha raccontato Bill Gates, che resta uno degli uomini più ricchi al mondo, naturalmente lo ricordiamo, fondatore di Microsoft, da bambino i genitori gli vietavano di leggere, almeno a tavola, era comunque un divoratore di libri, però appunto a tavola no. Ora divora un libro a settimana, li recensisce con l'aiuto di internet, naturalmente queste recensioni sono di disponibili per tutti, quello che recensisce va a Ruba, quindi viene considerato un recensore affidabile. Ha il suo blog, che è www.gatesnote.com/books, e quando appunto ci racconta Matteo Persivale, che è sempre molto attento a quello che succede negli Stati Uniti, quando recensisce un libro, subito molti lo seguono, lo comprano questo libro in formato elettronico o in formato cartaceo. Torniamo sulla questione delle frontiere. A pagina 11 della Repubblica c'è forse lo schema più esplicativo, più chiaro di quello che sta succedendo. Tra paure ed egoismi nazionali torna l'Europa delle frontiere. Dietro la riduzione di Schengen, abbiamo detto Schengen, il trattato che permette la libera circolazione, oltre che delle merci e dei capitali, anche delle persone all'interno della zona euro, c'è il rischio di un continente di nuovo diviso. Così i paesi virtuosi del nord provano a relegare ai margini Italia e Grecia in un Mediterraneo in fiamme. Sono questioni dove è pieno di zone grigie, no? Perché abbiamo detto che si possono mascherare questi controlli o queste nuove frontiere come protezione dal terrorismo, ma anche più semplicemente protezione dai flussi migratori. È successo in Francia quest'estate, è successo, abbiamo detto, in Ungheria, e continuerà probabilmente a succedere, anche se in questo momento è rallentato un po' l'arrivo dei migranti appunto nei paesi del sud dell'Europa, quindi Italia, Grecia in primo piano, ma anche Spagna, per via del tempo naturalmente, ma è soltanto quando le temperature saranno di nuovo un po' più miti ricominceranno questi flussi migratori, per non parlare naturalmente del fatto che in assenza del corridoio del Mediterraneo, o comunque ridotto il corridoio del Mediterraneo, c'è attivo il corridoio dei Balcani. L'ultima segnalazione prima della pausa per il traffico, vi dicevo la questione della RAI, Eliana Di Caro che ci ha ricordato sul Sole 24 Ore come tutta la polemica sul Capodanno a Matera sia anche un modo per mascherare tutti i movimenti che ci sono negli equilibri di potere della RAI. E allora pagina 15 della Repubblica, RAI, nuovi direttori per tutte e tre le reti, quindi tante ipotesi, perché per ora di questo si tratta, su che cosa succederà all'interno della RAI. Una pausa per il traffico, ci ritroviamo subito dopo per l'ultima parte della rassegna. In primo piano. Ancora buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali e dalla Repubblica vi segnalo anche un'intervista al responsabile al ministro dell'ambiente Galletti, Gianluca Galletti, che cerca un po' di giustificarsi. È stato molto sotto tiro durante gli ultimi giorni dell'anno e i primi giorni dell'anno per quello che succedeva nelle grandi città, cioè l'emergenza smog, che poi tutti abbiamo capito non poteva essere risolta con blocchi del traffico temporanei, ma con misure più di medio lungo termine, e che al momento è stata parzialmente risolta solo grazie alla fortuità degli eventi meteorologici. Pioggia e un pochino di neve hanno finalmente ridotto i livelli di queste polveri sottili così nocive per la salute. E allora appunto in questa intervista concessa a Fabio Tonacci la versione di Galletti: io ministro sotto tiro, salvato dalla pioggia, attaccato perché non faccio parte della casta degli ecologisti. È credo un modo un po' semplicistico appunto di affrontare la questione. Io credo che tutti ci auspichiamo che vengano veramente messe in atto, come sembrerebbe dopo i vertici con il ministro stesso e i sindaci e i governatori delle regioni, vengano messe in atto delle misure di medio termine e non così dei palliativi quando si verificano le emergenze, perché come sempre sennò l'Italia si dimostra essere il paese appunto delle emergenze e delle soluzioni di emergenza. Torniamo sul Messaggero per chi volesse approfondire questa questione delle partecipate. Appunto trovate tutto a pagina 10. Taglio delle partecipate per gli esuberi, no ai licenziamenti, ma si apre un caso. E come vi dicevo come richiamato in prima pagina, adesso molto dipenderà da quello che viene deciso nel prossimo Consiglio dei Ministri, dove dovrebbero anche essere varati i decreti per quanto riguarda questa parte della riforma della pubblica amministrazione. A proposito di soldi pubblici, sempre sul Messaggero a pagina 23, un approfondimento sul piano di sostegno ai musei, 300 milioni in arrivo, Ci saranno anche 50 milioni per il rinnovo dei sistemi di allarme e videosorveglianza. Avete sicuramente ricordate nei mesi scorsi alcuni casi di furti clamorosi, cioè nei nostri musei c'è, come in tutti i musei del mondo, c'è naturalmente bisogno di molta sicurezza. Il ministro Franceschini, il ministro per i beni culturali, ha varato il piano di investimenti per la cultura. Ci saranno 241 interventi in tutta Italia, dalla Domus Aurea al Cenacolo, il Cenacolo di Milano, finanziamenti di Leonardo da Vinci naturalmente, finanziamenti anche per le biblioteche e poi 5,4 milioni destinati a rilanciare Palazzo Venezia. Si dice sempre che la cultura è il petrolio del nostro paese, anche per attirare turismo culturale o come anche un turismo che sia un misto di turismo per tutte le bellezze che abbiamo in Italia, non solo culturali, ma che poi faccia leva anche appunto su tutto quello che possiamo offrire dal punto di vista culturale. Una storia curiosa, a pagina 17 della Stampa, ce la racconta Lorenza Castagneri, quei vincitori della lotteria che dimenticano di ritirare i soldi. A me è sempre sembrato impossibile che appunto, ma in realtà forse è così, anch'io ho comprato biglietti della lotteria senza poi controllare se avevo vinto, però mi è sempre sembrato strano che chi vince il primo premio poi non lo ritiri. Ebbene, appunto questi dati invece ci raccontano che dal 2002 a oggi lo Stato ha accumulato un tesoro di 23 milioni di euro di premi non ritirati. Lo spunto naturalmente è anche l'estrazione della Lotteria Italia, che sarà domani sera, verrà fatta su Rai 1 durante la trasmissione Affari Tuoi. Dalle pagine dell'Avvenire, che come sempre io sfoglio con grande attenzione perché tiene monitorate molte crisi all'estero, e c'è naturalmente tantissimo spazio, come abbiamo visto in prima pagina, sullo scontro più forte in questo momento, cioè tra sciiti e sunniti e in particolare tra Arabia Saudita e Iran, però ci racconta l'Avvenire, si riaccende il fronte Israele-Libano. Gli sciiti di Hezbollah prendono di mira una pattuglia sul confine, ennesimo quindi episodio di tensione sul confine tra Israele e Libano. Netanyahu, il premier israeliano, ha le prese anche con il terrorismo interno, distrutte le case degli assalitori che hanno agito domenica. Un aggiornamento sulla vicenda della squadra di calcio femminile di Locri. Fino a 3-4 giorni fa sembrava il titolo principale, era sulla prima pagina di tutti i giornali, poi sparita la notizia, non si è più capito, giocheranno o non giocheranno, a chi erano veramente dirette le minacce, che apparentemente, cioè formalmente erano dirette al presidente della squadra, però perché non è mai stato veramente chiariti i contorni di questa vicenda. E ora l'Avvenire, anche ancora una volta appunto l'Avvenire, Locri torna in campo e il presidente rinuncia, quindi il presidente lascia dopo queste minacce. Ricorderete, era stato minacciato il figlio, perché nel biglietto era trovato nel posto dove c'è il seggiolino per il bambino, c'è scritto "sappiamo chi si siede qua". Le ragazze dello Sporting Locri, appunto le ragazze di questa squadra femminile di calcio, che tra l'altro è messa molto bene nel suo campionato calcio a 5, giocheranno domenica, quindi tornano a giocare. Dal Fatto vi segnalo un'intervista alla eloquentissima, sempre presidente della Camera, Laura Boldrini, che però lei vorrebbe essere sicuramente chiamata presidentessa, perché fa questa battaglia da anni sul femminile delle cariche. Questa intervista dice, intitolata Dal Fatto, "Caro Matteo, chi dice no non è per forza conservatore". Il riferimento è al referendum sulla riforma costituzionale, di cui sapete nel messaggio di fine anno Renzi ha di nuovo parlato, dicendo che su questo si gioca la sua credibilità, il suo progetto politico. La presidente della Camera, presidentessa della Camera, Laura Boldrini, che tra l'altro è stata eletta nelle file di SEL, quindi non nel PD, appunto invece dice tutto sommato chi voterà no non deve essere per forza bollato come conservatore, ma in questa intervista parla anche di tante cose e come sempre dà l'impressione, se la leggete, di essere stata un po' come riscritta, riveduta e corretta, che mi sembra strano per un articolo apparso sul Fatto, però io non credo che le persone rispondano così, c'è poca naturalezza in queste risposte, però insomma tant'è, i fan di Laura Boldrini o i suoi detrattori trovano il suo pensiero di oggi in pagina 7 del Fatto Quotidiano. L'approfondimento invece secondo me è molto interessante, è una cosa di cui sicuramente, su cui sicuramente riflettere, questa della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. E chi la sostiene naturalmente pensa che tutti i fondi, i soldi che verranno eventualmente spesi porteranno dei vantaggi di medio-lungo termine ben oltre le Olimpiadi, chi invece pensa che come sempre quando ci sono tanti stanziamenti, tanto denaro pubblico che viene riversato su un grande evento, c'è innanzitutto il rischio corruzione, e sappiamo quanto questo sia vivo a Roma e in generale in Italia purtroppo, e poi soprattutto c'è appunto chi dice che se tanti soldi possono essere stanziati possono essere usati direttamente in modo diverso e non per un evento come le Olimpiadi. Questo lungo articolo di Stefano Feltri ricorda come nel 2011 Mario Monti, già all'epoca era Presidente del Consiglio, decise che i rischi erano troppo alti, citando tra l'altro le Olimpiadi del 2012 di Londra, che sì, furono un grande successo mediatico, ma lasciarono anche un buco colossale. E sappiamo anche quanto le Olimpiadi imminenti, quelle di Rio de Janeiro della prossima estate, abbiano causato non il grande rilancio economico di cui si era sperato, ma in realtà anche lì grandi buchi di bilancio. Dalle pagine interne di Libero vi segnalo invece un approfondimento di Ugo Bertone su una questione che forse è un po' un tabù e però anche qui forse dovrebbe farci riflettere. Il titolo dell'articolo è "La finanza degli Stati Uniti ti fa guerra per tenere alto il greggio". Il greggio, naturalmente il prezzo del petrolio, i prezzi bassi di oggi voluti dall'Arabia Saudita rendono poco competitivo lo shale oil americano. L'attuale scenario rischia di far saltare i mercati e pure i sauditi. E quindi ci sarebbe in qualche modo, anche in questo cinicissimo, potremmo dire, gioco a tifare guerra, perché c'è dietro appunto anche tutta la questione del prezzo del petrolio che, essendo sceso così basso, sappiamo ha messo in difficoltà i produttori di olio americani, non soltanto i produttori ma anche i trasformatori, e quindi ha naturalmente anche causato degli scossoni in borsa. Finanziari, quindi. Dalla pagina dell'Unità vi segnalo un'intervista a Cicchitto, esponente del Nuovo Centrodestra, quindi ex esponente di Forza Italia, ora nel Nuovo Centrodestra, che racconta il suo parere sulla questione delle adozioni, sulla stepchild adoption, le cosiddette adozioni a coppie gay. Poi in realtà stepchild adoption letteralmente vuol dire adottare il figlio del compagno. Potrebbe essere usata soprattutto delle coppie gay per avere appunto in qualche modo aggirare la legge sulle adozioni. Secondo Cicchitto possiamo trovare la mediazione. Una tra le ultime segnalazioni che riesco a farvi sempre dall'Unità, un anniversario che cade in realtà domani, 6 gennaio 1980, la mafia ordinò "Uccidete Mattarella". Carmine Fotia ripercorre la genesi di questo omicidio del fratello, come sapete, del nostro attuale Presidente della Repubblica. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, un grazie a Peter Bescapè in regia, era anche il mio ultimo giorno extra, domani ci sarà Mauro Meazza, poi torna Alessandro Milan e noi invece ci risentiamo per la rassegna dei giornali italiani domenica. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.